Respiro. Buon pomeriggio e ben ritrovati da Laura Bettini. Il primo ospite della puntata di Respiro di oggi arriva direttamente dal Salone del Libro di Torino. È un'intervista questa che vi proponiamo con molto piacere, perché questo scrittore è riuscito a scrivere un libro accattivante a partire da un tema tutt'altro che leggero, come quello della riduzione delle emissioni. Questo scrittore è Colin Bevan, americano, autore fino a poco tempo fa di libri che nulla avevano a che vedere con l'ambientalismo. Finché un giorno Colin si mise in testa di provare a vivere a New York a impatto zero, quindi senza emettere CO2. Così convinse la moglie a seguirlo su questa strada ed, inutile dirlo, furono coinvolti anche la figlia di 2 anni e il cane della famiglia. Si cominciò con cosa? Con la spazzatura, che fu ridotta praticamente a zero, e poi le scale, che per un anno hanno fatto tutti quanti rigorosamente a piedi, e poi la spesa dal contadino e addirittura a un certo punto addio anche alla corrente elettrica. Finito l'anno di sperimentazione, alcune buone nuove abitudini sono rimaste in questa famiglia, altre vecchie sono ritornate, compresa la luce elettrica, per fortuna di Bevan, che aveva a che fare con il bucato a mano un po' troppe volte alla settimana. Bevan l'ha incontrato la collega Alessandra Tedesco, come dicevamo, al Salone del Libro di Torino, e Alessandra Tedesco gli ha chiesto non solo di questa esperienza, ma anche di come ha insegnato alla figlia Isabella a consumare meno, perché l'educazione dei bambini è la vera questione su cui noi giochiamo il nostro futuro. Sinceramente, non c'è stato un momento in cui magari avete pensato, beh, con un cibo pronto in questo momento avremmo fatto molto prima, oppure usando i pannolini confezionati sarebbe stato più semplice? Sure, I mean, there were times when I thought, you know, this is hard. Certo, ci sono state delle volte in cui ho detto, mamma mia, questo è veramente molto difficile, ma diciamo che in tutta la nostra vita ci sono, come dire, un andamento a picchi in cui tutto o va molto in alto oppure va molto in basso. Beh, sicuramente uno dei momenti più difficili ha avuto a che fare con quando abbiamo deciso di non utilizzare più l'energia elettrica. Non utilizzare più l'energia elettrica voleva dire, ad esempio, fare il bucato a mano, come le nostre nonne, come la bella lavanderina. Il problema è che era veramente difficile, e a un certo punto addirittura devo confessare che me veniva da far... insomma, volevo utilizzarla io, la lavatrice, non ne potevo più. Questo perché molto spesso nella nostra cultura si tende a utilizzare tutta una serie di cose di cui magari non abbiamo veramente bisogno. Invece bisognerebbe capire che ci sono delle cose di cui si può fare a meno, delle altre invece che vanno utilizzate fino a un certo livello, e questo è il livello che dovrebbe corrispondere anche alla sostenibilità ambientale. In questo esperimento è stata coinvolta anche naturalmente vostra figlia, che all'epoca aveva 2 anni. Sicuramente non si sarà resa conto della differenza fra i pannolini confezionati e quelli non confezionati, però avete in qualche modo cercato di spiegarle che cosa stavate facendo? Le avete insegnato, per esempio, a non chiedere troppe cose, di cadere troppo nel consumismo? Actually, it's very interesting that you should talk about the diapers, because she had been in the disposable diapers and then I put her in. È molto interessante questa domanda che riguarda i pannolini, perché effettivamente prima lei utilizzava i pannolini usa e getta, quelli di plastica, e poi invece abbiamo cominciato a utilizzare quelli in tessuto. Poi un giorno io non riuscivo a trovarlo quello in tessuto e le ho rimesso quello usa e getta, e a quel punto lei ha cominciato a piangere disperata. E come mai? Allora, quando si pone la questione, io rispondo sempre, beh, prova tu ad usare biancheria intima fatta di plastica anziché di cotone, poi mi dici se sei contento. Detto ciò, devo dire che Isabella ci ha veramente aiutati. Forse lei ha insegnato più a noi che non noi a lei la bellezza di vivere salvaguardando l'ambiente, per il bene dell'ambiente e per il bene suo, perché in generale i bambini comunque non hanno questa esigenza di acquisire sempre più cose in maniera molto consumistica come noi adulti. E ad esempio le scale, noi non potevamo prendere l'ascensore, andavamo a piedi, e a lei questa cosa piaceva tantissimo, è diventato un enorme divertimento. Però c'era un però, perché ovviamente arrivati a 2 gradini dall'arrivo bisognava cominciare a saltare. I bambini però si sa, fanno spesso dei confronti fra di loro. Certo, lei era molto piccola, però anche dopo magari sarà andata all'asilo, avrà incontrato altri bambini, non le è nata questa voglia di avere sempre cose nuove, non so, giocattoli nuovi e così via. Come le avete spiegato invece la vostra scelta di vita? In realtà non ha mai avuto bisogno di, cioè non è mai stato necessario spiegarle quasi nulla, perché ad esempio una cosa molto buffa che è successa, lei adesso ha 5 anni, quando ad esempio siamo entrati in una grande libreria e lei ha visto il mio libro, ha detto papà guarda il tuo libro, e a quel punto non si è limitata a dire quello ma ha cominciato a indicare a tutti i presenti, a tutti gli astanti, guardate che questo qui è Colin, è quello che ha scritto il libro, e lui dice è stata una situazione super imbarazzante. Ad esempio un altro episodio interessante è accaduto a Natale, c'è stato Natale e noi dovevamo fare qualche piccolo regalo a Isabella, allora abbiamo incartato dei vecchi giochi dei nostri cugini e lei sicuramente aveva molta gioia nello scartare i regali, ma poi non ci ha giocato più di tanto, ha preferito anziché giocare con i giochi nuovi andare a sentire suo zio che suonava il pianoforte. Quindi devo dire, adesso ad esempio possiamo comprare tutto quello che vogliamo, allora può succedere magari che ci sia qualcosa da comprare, qualcosa da vedere in televisione, però io a volte le chiedo, senti ma preferiresti guardare la televisione o passare un po' di tempo con me? Preferiresti comprare questa cosa o passare un po' di tempo con me? E lei quasi sempre risponde, preferirei passare un po' di tempo con te papà. Quindi molto spesso si tratta di oggetti che servono a sostituire qualcos'altro che i bambini preferirebbero di gran lunga. Ora che l'esperimento è terminato, che cosa è rimasto di quelle abitudini nella vostra vita? Che cosa fate ancora e che cosa invece non fate più? Well, we saved a lot of money during the experiment, so we took that money and we used it to buy a gigantic second-hand Hummer. Allora, durante l'esperimento abbiamo risparmiato un sacco di soldi, così adesso ci siamo comprati un bellissimo Hummer del modello proprio più grosso che c'è. E come abitudini di vita? Obviously. But your lifestyle is obviously that's a joke, but it's really important when we're quando si fanno le cose che facciamo noi, anche non guasta avere un bel senso dell'umorismo, come avrete capito. Allora, quello che noi abbiamo fatto per noi aveva un senso come può averlo appunto scegliere di non comprare cibi preconfezionati pieni di sostanze chimiche che non conosci, ma piuttosto di comprare qualcosa che compri al mercatino, dal produttore, lo guardi in faccia e quindi sai che cosa stai facendo. Ad esempio in America c'è l'abitudine di prendere sempre il taxi, ad esempio anche per andare in palestra, così prendi il taxi, vai in palestra e poi fai un po' di step o vai in bicicletta sul posto. Questo non ha molto senso. Inoltre la nostra esperienza ci ha anche permesso di capire che si può anche risparmiare veramente, perché ad esempio l'energia che va a finire nel condizionatore che lasci acceso tutto il giorno, invece puoi utilizzarlo per qualcos'altro. C'è questa idea appunto che vivere in maniera ecologista rispettando l'ambiente sia molto difficile. Beh, non dovrebbe essere così difficile sicuramente, dovrebbe essere molto più facile. La nostra vita, il nostro modo di vivere riflette i nostri valori, e un altro sicuramente nostro compito, di cui sono molto consapevole, è la necessità di sensibilizzare sempre di più sia i governi che le grandi corporation americane nei confronti appunto della questione ambientale. Per ora lo prendete l'ascensore? Of course. Sicuramente la questione del sì, lo prendo l'ascensore, decisamente lo prendo l'ascensore. Ad esempio la cosa divertente è che a New York la commissione per la sanità del governo americano continua a spingere la gente a non prendere l'ascensore ma a fare le scale, visto anche il grande problema che c'è in America con l'obesità. Ovviamente questo vi dà un'idea appunto di quanto sia folle la situazione, perché molto spesso le risorse di cui noi disponiamo vengono utilizzate male, invece bisogna non utilizzarle, imparare a utilizzarle bene. We can do better by the planet and do better by ourselves too. Grazie ad Alessandra Tedesco per l'intervista. La storia della famiglia Beven è pubblicata in italiano da Cairo Editore. Il titolo è Un anno a impatto zero, 285 pagine, €14,50. Non altrettanto radicale, ma sempre significativa, è l'esperienza che stanno conducendo le decine di famiglie italiane distribuite in 5 città che aderiscono al progetto RACES, Raising Awareness on Climate and Energy Savings, accrescere la consapevolezza sul clima e il risparmio energetico. È un progetto molto ampio, cofinanziato dalla Commissione Europea, diretto anche a scuole ed enti pubblici, che per le famiglie prevede in particolare 10 mesi di sperimentazione, un periodo periodo in cui bisogna impegnarsi a ridurre le proprie emissioni di CO2. Se ne parlerà la prossima settimana a Terra Futura, mostra convegno delle buone pratiche di governo e di impresa che è in programma a Firenze come ogni anno. Qualche anticipazione ve la diamo però noi con Andrea Rutigliano, cioè il capofamiglia di una di queste famiglie cavie del progetto. Andrea Rutigliano vive a Firenze con la moglie e la figlia e da settembre cerca di ridurre l'impatto ambientale della sua famiglia. Siamo stati contattati molto a Campione, credo, per telefono dal Comune di Firenze, dall'ufficio diciamo che segue questa cosa qui. Ci hanno mandato una lettera dove se volevamo aderire, siccome la cosa ci interessava, abbiamo insomma aderito a questo progetto. Effettivamente stiamo anche lavorando con gli altri del gruppo per alcune cose inerenti proprio al risparmio energetico per quanto riguarda anche l'amministrazione comunale. Quante famiglie sono a far parte di questo gruppo? Ma senta, famiglie attive che si ritrovano, siamo credo 10-15 famiglie, però a livello diciamo di tutta Firenze, così che avevano aderito, che ci sono anche altri, come si dice, anche altri settori che diciamo che non vengono assiduamente alle riunioni, per esempio. Quindi credo che fossero 178 famiglie a livello cittadino, credo. Quante riunioni fate più o meno? Ovviamente le riunioni si svolgono, diciamo, questo gruppo ristretto di 15 famiglie si fanno all'ufficio delle Eco del Comune di Firenze, ci ha messo a disposizione, diciamo, una volta al mese, ogni 15 giorni, una volta al mese, ecco. Che cosa si dice in queste riunioni? In queste riunioni, prima cosa, portiamo anche l'esperienza che ognuno fa nella propria, diciamo, famiglia per quanto riguarda i risparmi e così. Poi abbiamo cercato di catturare alcuni argomenti da seguire con una certa continuità. Per esempio, ora il risparmio energetico negli edifici pubblici, praticamente scuole, comuni, assessorati, uffici diciamo di pertinenza comunale, ecco. Stiamo seguendo l'iter della messa in funzione delle elettrovalvole in tutti diciamo gli uffici comunali. Quindi fate anche un po' da controllori. Brava, ha capito. Cioè cerchiamo di farlo, non so fino a che punto ci potranno, ma penso che ci sia da parte dell'amministrazione, visto che ci hanno convocato in Commissione Ambiente l'altra settimana, la possibilità di fare delle cose, ecco. Senta, quando all'inizio vi hanno convocato la prima volta, vi sarete un po' trovati così, vi hanno dato anche qualche indicazione su quelli che erano gli interventi che potevate fare o vi hanno lasciato carta bianca? No, diciamo, siamo entrati. Prima abbiamo sviscerato le priorità che secondo noi potevano esserci. Ovviamente deve capire che su tante persone non abbiamo tutti la solita idea. Questo è ovvio, no? Quindi io, per esempio, ero partito con l'idea su un discorso della mobilità, ecco. C'era chi poi diceva la raccolta differenziata porta a porta. Insomma, c'erano un sacco, eravamo in diversi, avevamo delle idee diverse su cui operare. Poi invece anche su indicazioni, diciamo, non indicazione precisa, quelli che portano avanti il progetto dicono: ma sì, ma voi dovete a questo punto fissare qualcosa su qualche argomento. E quindi ad esempio quello del riscaldamento delle case è stato uno? Esatto, esattamente. Come avete fatto? Dunque, noi abbiamo, siccome non essendo casa di proprietà e quindi in affitto, ovviamente alcune modifiche non puoi farle a livello sistematico, ecco. Quindi abbiamo, diciamo, siccome sono case non di nuova costruzione, ma vanno 35-40 anni, ci sono ancora i cassonetti, abbiamo fatto una pavimentazione con del polistirolo all'interno dei cassonetti. Quelli degli avvolgibili praticamente, poi abbiamo messo dei buoni palaspifferi perché ci sono i vari tipi, poi sotto le soglie delle finestre abbiamo messo del polistirolo incollato che non si vede, proprio la soglia diciamo della finestra che dà sopra il radiatore, e poi dietro il radiatore abbiamo messo dei pannelli rifrangenti appositi, si compra il metraggio, poi non più di 19-20 gradi. Ho visto che abbiamo risparmiato diversi eurini, insomma, tanto per andare sul venale, ecco, diciamo un paio di centinaia di euro. come dicevamo, per maggiori dettagli, dal 28 al 30 maggio a Firenze c'è Terra Futura, dove per presentare il progetto RACES c'è la mostra Cambia il clima in città, che illustra l'impatto del cambiamento climatico sulla vivibilità delle nostre città e le misure da adottare per gestirne le conseguenze e ridurne le cause. È tutto per questa puntata di Respiro, l'appuntamento è per la prossima settimana alla stessa ora. Per scriverci, respiro@radio24.it. Da Laura Bettini, un buon proseguimento d'ascolto.